Italia in controluce. E il 27 di luglio vi parla Daniele Biacchessi su Radio 24. Chi sono i militanti di Forza Nuova? Qual è la loro idea di società? Paola Ceretta li ha incontrati nelle loro sedi milanesi. Cos'è Forza Nuova? Marco Sudati. Noi siamo un movimento, una delle caratteristiche principali è quella della scarsità di cariche. Cerchiamo di essere al nostro interno quello che vorremmo che fosse la nostra nazione, ossia un'entità organica dove ognuno collocato al proprio posto sa far bene quello che gli tocca fare. Al nostro interno c'è un forte senso della gerarchia, non c'è una corsa sfrenata a ricoprire cariche gerarchicamente importanti, perché questo viene considerato un disonore. Come si colloca Forza Nuova. Marco Mantovani. Noi non ci sentiamo né di destra né di sinistra, ma alternativi, quindi siamo rappresentiamo una terza posizione. Cosa significa essere forza novisti? Marco Sudati. Avere un'idea ben precisa dello stato di decadenza in cui versano l'Italia e l'Europa e della necessità di porvi rimedio attraverso una improcrastinabile operazione di ricostruzione nazionale. Che rapporto avete con il fascismo? Del fascismo sia necessario recuperare in tema di leggi sociali, del rapporto con la Chiesa Cattolica. Insieme alla messa al bando della massoneria sono dei punti estremamente qualificanti in senso positivo del fascismo, anche se non è assolutamente nostra intenzione fare del fascismo un feticcio. Duilio Canu. Le grandi opere, le grandi rivoluzioni sociali, la cancellazione delle differenze di classe, la ricostruzione, il boom economico, l'hanno fatto i Balilla. Spesso forza novisti fa rima con fascisti. Marco Mantovani. Se noi partecipiamo alle elezioni non possiamo essere bollati come fascisti. Se fossimo fascisti dovremmo essere fuori legge. È un'etichetta che fa comodo per tentare di metterci fuori gioco. Angelo Balletta. È una categoria che non ci appartiene. Col fascismo è un periodo storico del nostro paese che noi riconosciamo in tutti i suoi pregi. Abbiamo un affetto ideale verso quel periodo. Cosa propone Forza Nuova? Marco Sudati. Noi siamo per l'abolizione delle leggi abortiste. Altri esempi. La moneta di popolo. Il sistema che vige in Italia come nel resto d'Europa e del mondo è un sistema usuraio che mina l'integrità dei popoli e la stabilità sin dall'inizio, nel senso che vige un sistema tale per cui sono perennemente indebitati con le banche, le quali privano lo Stato dell'esercizio della sovranità monetaria che invece gli spetta naturalmente. A proposito di immigrazione. Quella che è in atto è una vera e propria invasione dell'Italia e dell'Europa. Qui si tratta di andare a difendere la sopravvivenza dei popoli europei. Duilio Canu. O abbiamo un problema di disoccupazione e quindi non devono far entrare neanche un tunisino, oppure invece i posti sono in abbondanza e per cui abbiamo bisogno di manodopera straniera, perché la storia che gli italiani non vogliono più fare certi lavori è tutto da dimostrare. Cioè adesso non li fanno perché c'è qualcun altro che li fa, che occupa quei posti sottopagato con degli stipendi da fame. Come sono andate le elezioni? Marco Mantovani. Non siamo dei politicanti professionisti, quindi non ti posso dire che siamo contenti del nostro risultato. Ci saremmo aspettati molto di più, perlomeno di intercettare tutti quei voti che la Lega perso, perché di fatto non ha mantenuto nessuna delle sue promesse. Vi sentite perseguitati? Beh, noi siamo perseguitati. Regolarmente tutte le sere venivano intercettati, fermati, identificati e venivano perquisite le macchine dei nostri militanti che stavano semplicemente attaccando i manifesti. Quando noi facciamo i banchetti, di fianco ci sono 2, 3, 4 pulmini delle forze dell'ordine, addirittura a volte in assetto antisommossa. L'anno scorso ci sono stati negati tutti i comizi che abbiamo chiesto. Una sede che avevamo vinto con un regolare bando di concorso dal Comune di Milano e che il Comune di Milano stesso ci ha tolto. È un accanimento a 360 gradi, perché noi diamo fastidio a tutti, perché noi diciamo delle cose normali, delle cose di buon senso. La seconda storia riguarda il passato, si chiamava Rete Stay Behind, Gladio, era stata creata in Italia per arginare l'eventuale vittoria del PC e delle sinistre. Il reportage di Andrea Ferro. Ottobre 1990, poco più di 20 anni fa, il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti rivela in Parlamento l'esistenza di Gladio, organizzazione paramilitare segreta concepita nel dopoguerra dalla NATO in ogni paese dell'Europa occidentale per organizzare la resistenza nel caso di un'invasione delle truppe sovietiche. In inglese si chiama Stay Behind, stare cioè dietro le linee. In italiano è Gladio per via del simbolo, una spada a doppio taglio usata dai romani. Tempi di guerra fredda, di muri e di cortine a spezzare il mondo e a sorreggere forzatamente gli equilibri internazionali. Successivamente Andreotti rende noto l'elenco dei 622 civili che in 40 anni hanno fatto parte dell'organizzazione. Giorgio Mathieu è uno di quelli. In